versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, siamo in diretta qui dagli studi di Milano di Radio 24, sono le 16:29 primi e 42 secondi, oggi per una fortuita cosa manca il GR, quindi partiamo con 2-3 minuti di anticipo e detto tutto questo immediatamente vi dico di cosa ci occupiamo oggi, ma prima devo farvi in questo primo di ottobre un annuncio, perché cari ascoltatori di Radio 24, nonché anche cari miei ascoltatori, ma dal lunedì prossimo c'è una novità in arrivo che vi annuncio fresca come una novità che spero vi piacerà, o comunque almeno per curiosità verrete ad ascoltarla, perché la mattina dopo il GR delle 8, quindi dalle 8 alle 9, da lunedì mattina, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9, Oscar Giannino la mattina torna con Radio 24 insieme a voi, insieme ad Alessandro Milan, in una nuova trasmissione che si chiamerà Attenti a noi due, io e Alessandro Milan, per, dopo la sua rassegna stampa, dopo il primo ospite eccetera, rivedere e rifarvi un pochino discutere dei fatti di prima mattina del giorno, di quello che scrivono sui giornali. Quindi torno la mattina dalle 8 alle 9 con Alessandro Milan, Attenti a noi due, da lunedì della settimana prossima, tutti i giorni da lunedì al venerdì. Questo non significa che verrà meno la versione di Oscar alle 4:30, quindi ci sentiremo su Radio 24 due volte ogni giorno, dalle 8 alle 9 e poi dalle 4:30 alle 5, e resterà anche l'appuntamento, per quello che mi riguarda, con Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, il sabato mattina in diretta dalle 10 alle 12, naturalmente appuntamento anche per questo sabato dalle 10 alle 12 con i conti della Belva. Però la novità è che torno anche la mattina insieme ad Alessandro Milan a fare un bel duo, per così dire, per stimolarvi la mattina e incrociare le nostre opinioni con quelle di Alessandro, a seconda dei fatti saranno analoghe, saranno diverse, e sentiremo anche voi con le telefonate in diretta, tanto lo sapete che siamo in diretta dal dopo il GR delle 8 fino alle 9 tutte le mattine. Attenti a noi due. Allora, di che cosa invece ci occupiamo oggi? E vi faccio subito una domanda, cari ascoltatori, per chiedervi di intervenire all'800240024 e di mandare le vostre opinioni al 349-238-6666. La domanda è molto semplice. Ma voi, nel coacervo quotidiano di numeri e dati che è diventato uno dei temi obbligati del confronto pubblico italiano, per così dire ottimismo a ogni costo contro quelli che Renzi chiama gufi, voi in questo torneo di manipolazione dei numeri, voi vi fidate dei numeri o che impressione vi fa questo torneo di numeri? Ne diffidate a questo punto chiunque ne parli? Oppure quando sentite qualcosa andate ad approfondire e dubitate sistematicamente, visto che ogni giorno di fronte a qualunque rilascio di cifre pubbliche da parte dell'Istat, del Ministero del Lavoro, dell'Inps eccetera eccetera, si scatena in due nanosecondi un torneo politico in chi dice una cosa e chi dice l'esatto opposto? Ecco, io sono molto interessato a capire come reagite e come la pensate, perché la realtà è che a furia di dare l'impressione nel dibattito pubblico italiano che i numeri dell'economia, delle statistiche, dell'occupazione, dei disoccupati sono per così dire una fisarmonica che ciascuno può tendere o comprimere a seconda di che cosa voglia sostenere, io ho come l'impressione che si faccia uno stupro quotidiano della fiducia pubblica, cioè la manomissione e manipolazione dei numeri ottiene l'effetto di falsare in maniera sistematica la stessa possibilità di formulare delle opinioni e di farsi un'opinione fondata, e quindi alla fine si genera una, posso sbagliare, sentiremo come la pensate voi, una sfiducia generale che riguarda tutto e tutti, per così dire, e quindi a quel punto i fatti spariscono e le opinioni trionfano. Però opinioni che interpretano la realtà, è giusto di averne anche di contrapposte, ma se non abbiamo più una metrica condivisa e accettata e rilasciata in maniera verificata per descriverci la realtà, di che cosa finiamo per parlare? Finiamo per parlare di fumo, contrapposto o ideologia o pregiudizi. Allora, essendo questo il tema della giornata, abbiamo come ospite un collega che tra le tante cose positive della sua carriera, ne cito solo l'ultima perché l'abbiamo invitato a questi microfoni, ha scritto l'anno scorso un ottimerrimo libro su la Fiat Chrysler, come salvando Chrysler la Fiat ha cambiato pelle, cambiato la storia sua, si è inventato un'iniziativa giornalistica proprio su ciò di cui parliamo oggi, stufo cioè di osservare le manipolazioni o di vedere le opinioni prevalere sui fatti, ha detto no, c'è bisogno di un prodotto giornalistico che sia fatto esclusivamente con numeri tarati e certificati, di fronte ai quali poi ciascuno è libero di avere opinioni le più varie e diverse, però solo numeri. E infatti la sua iniziativa si chiama esattamente True Numbers. Per parlarne è con noi, e io molto ringrazio, ma lo ringrazio innanzitutto per l'idea, perché è un'idea che io gli invidio, perché la condivido, avrei voluto farla con lui, per così dire, è Marco Cobianchi, giornalista, lavora a Panorama, però oltre che lavora a Panorama fa anche e ha fatto negli anni tante cose, tanti libri. Grazie Marco di essere con noi. Grazie Oscar, grazie mille, fammi dire che sono molto contento che tu torni alle 8 del mattino, così la mattina uno arriva in ufficio già molto bello carico, incazzato come una volta. Sono molto felice del tuo ritorno. Allora, parlaci da dove viene questa idea, in che cosa consiste, e chi è curioso di potersene abbeverare, come fa e dove la trova? Dunque, questa idea in realtà ci lavoro da circa 3 anni. In Italia non è mai facile far partire qualche cosa di nuovo, quindi ho dovuto carburare bene come un diesel, non quello della Volkswagen, ma insomma come un diesel. Ci ho messo un po' di tempo e alla fine finalmente siamo partiti. Il progetto si consiste in due pilastri. Il primo pilastro è il sito che si chiama www.trunambas.it oppure .tv. In questo sito si trovano solo numeri, solo tabelle, solo grafici, solo di fonte ufficiale. Questo tengo a sottolinearlo perché condivido pienamente quello che hai detto tu. Fonte ufficiale significa che non sono numeri che non sono elaborati da centro studi o da associazioni di categoria, piuttosto che altri organismi che ovviamente prendono i numeri nudi e crudi e poi li girano, no? E spesso fanno dire ai numeri anche quello che non vogliono dire. Il secondo pilastro invece è una trasmissione via web che è partita il 17 settembre e che viene trasmessa sia dal sito del mio giornale, cioè Panorama, sia dal sito di trunambas.tv, oltre che da una decina di altri portali di informazione su internet in Italia. Ed è una trasmissione web completamente diversa, non esiste nulla del genere, perché dura 5 minuti, perché parla di numeri, o meglio, parla della realtà attraverso i numeri. E non è una trasmissione economica, perché attraverso i numeri si può raccontare tutti gli aspetti della società. Noi abbiamo fatto delle puntate, ad esempio, certamente sulle tasse, quella che uscirà, ma ne abbiamo fatta una anche sulle discriminazioni, sull'immigrazione. Quindi tutta la realtà si può raccontare attraverso i numeri. Questi sono i due pilastri del progetto True Numbers. Allora, questo True Numbers TV, in realtà tu avevi fatto anche una trasmissione era su Rai 2, me lo ricordo bene? Sì. Da cui insomma nasceva, insomma iniziavi già a lavorare su questa idea. Iniziavo a lavorare perché mi sembrava che mancasse effettivamente qualche cosa, cioè che davvero molte opinioni sono luoghi comuni, no? Ad esempio, una delle trasmissioni che faremo, adesso non mi far svelare niente, no, ma no, una delle trasmissioni, forse la più clamorosa, riguarda la fuga di cervelli. Non si può sostenere in Italia che i ragazzi sono dei mammoni e poi c'è la fuga di cervelli. Ovviamente una delle due frasi è sbagliata. E noi abbiamo, siamo andati a vedere i numeri, no? Siamo andati a vedere i fatti, come stanno effettivamente le cose. E abbiamo fatto una trasmissione, secondo me, la più bella da seguire. E nel 2012, scusami, stavo rispondendo alla tua domanda. Sì, nel 2012 feci questa trasmissione su Rai 2, si chiamava Numeri, appunto. Andò molto bene, poi la Rai, come sappiamo, è molto decise altro. decise altro, e fu la mia fortuna, perché ha ragione Sant'Agostino: non tutto il male viene per nuocere, c'è del buono anche nel male. Fu la mia fortuna, perché da lì cominciai a ragionare attorno a un progetto diverso, nuovo, più innovativo, più diverso, se mi fai dire, è qualcosa che ancora non c'era. Io ho sempre in mente, a questo proposito, una frase straordinaria di un grande imprenditore italiano che si chiama Mario Moretti Polegato, che un giorno disse in un'intervista, una frase che mi è rimasta scolpita: disse, si può innovare anche una ciabatta. Secondo me è una frase meravigliosa, e ha ragione, quindi anche nel mondo del giornalismo e dell'editoria, che ovviamente sta passando un periodo non proprio felice, si può innovare ancora, c'è ancora spazio per innovazione. Questo è un modo, ad esempio, questo è un modo. Allora, io per corroborare e applaudire da parte mia, in questo caso come utente e non come giornalista, a questa iniziativa di Marco Cobianchi, quindi andate a scaricarvi e vedete le puntate, adesso poi parleremo della puntata rilasciata oggi e dell'argomento delicato su cui verte la puntata, vi faccio un esempio relativo, ogni giorno ci sono esempi di questo tipo, relativo ieri al rilascio da parte dell'Istat dell'andamento dell'occupazione nel mese di agosto. E per chi va sul sito dell'Istat e scarica il comunicato integrale, non la sintesi, andate sempre ai comunicati integrali e alle tabelle, se volete un consiglio, perché le sintesi di solito sono politicamente orientate, ecco. Se voi avete visto i telegiornali della serata, con alcune eccezioni, per esempio l'eccezione rappresentata dalla rassegna del giorno che è andata in onda ieri sera a 8:30, curata da Paolo Pagliaro, che dava una lettura corretta, sia pure in due minuti, di quello che diceva l'Istat, nei telegiornali della Rai voi non avete avuto la possibilità di un elemento che era fondamentale nel rilascio dei dati dell'Istat di ieri, mentre tutti i telegiornali giustamente sottolineavano l'aumento di 325.000 occupati rispetto all'anno precedente, non in un mese in questo caso, ma a questo punto dell'anno rispetto all'anno precedente. Nessuno dei telegiornali Rai, con una eccezione che però non spiegava bene, cioè quella del TG3, si soffermava sul fatto che, non a caso, mentre in tutti i rilasci mensili vi siete stati intrattenuti sull'argomento guardate come crescono i contratti detti a tempo indeterminato, quelli a tutele crescenti, per così dire, per effetto del Jobs Act, ieri sera questo argomento mancava, per così dire. E mancava perché? Perché in realtà nel trimestre giugno, luglio, agosto di quest'anno, dei 107.000 nuovi lavori solo dipendenti aggiuntisi, quindi creati, di quei 107.000 i lavori dipendenti a tempo determinato, non a tutela crescente, a tempo indeterminato, sono rispetto a 107.000, 94.000, cioè l'88%. Ecco, nel mondo del lavoro dipendente, in questi tre ultimi mesi, la trionfale marcia in avanti dei rapporti a tempo indeterminato, o meglio a tutele crescenti, è stata, per così dire, sostituita da un aumento del tempo determinato. Questo fatto, per così dire, non è che sminuisce i 325.000 occupati in più a fine agosto rispetto a fine agosto 2014, ma è fondamentale per capire, farvi capire che cosa sta avvenendo nel mercato del lavoro. Poi l'interpretazione può essere diversa, la mia è quella che le imprese hanno iniziato a capire, da una parte che la decontribuzione di 8.000 euro l'anno per contratti di qualunque tipo, purché a tutele crescenti, voglio dire in sostituzione di contratti di qualunque tipo, mancherà l'anno prossimo, e un po' incerte sullo spessore, l'andamento, la durata della ripresa, riprendono i contratti a tempo. A questo si aggiunge naturalmente l'effetto stagionale molto forte in alcuni settori, quello degli hotel, della ristorazione e del turismo, dei contratti stagionali estivi. Però detto tutto questo, era un elemento fondamentale, e allora in quel caso bisognava lasciar parlare appunto i numeri, e invece i numeri nel nostro paese non vengono lasciati parlare molto spesso per quello che sono, perché sapete che se sei poi noti il fatto, sì, ma qua guarda che l'88% dei rapporti di lavoro dipendenti sono a tempo determinato, è come se volessi sminuire l'effetto del Jobs Act. Io non voglio sminuire niente, ma i numeri dicono questo, e quindi agli ascoltatori, ai telespettatori, ai lettori va spiegato esattamente quello che il numero restituisce, non va nascosto. Ecco, vi faccio solo l'esempio di ieri, ma si potrebbe fare per qualunque cosa. Ne faccio un altro che riguarda ancora la giornata di ieri. Nel mese di settembre in Italia l'inflazione ha avuto il segno meno 0,3%, esattamente anche in tutta l'euroarea siamo tornati alla deflazione, meno 0,1% nei 19 paesi dell'euro. Di fronte a questo i mercati hanno subito detto, ma allora qui la BCE e il suo quantitative easing, che vuole riportarla al 2% l'inflazione, non sta funzionando. Questo era l'effetto di fondo del dato dell'inflazione di settembre. Il ministro dell'economia Padoan interviene e dice, ma non commenta il dato di settembre, e dice no, ma quello che conta è che l'acquisito da inizio anno è un'inflazione più 0,3%. Peccato che però stia di nuovo infrenata e sia scesa sotto. Perché il ministro dell'economia vi dice questo e vi nasconde il dato reale di settembre? Perché tutta la nota aggiuntiva del DEF, cioè la prossima legge di stabilità, sta appesa a una valutazione del governo molto ottimistica sull'inflazione dell'anno prossimo, la cosiddetta crescita nominale, perché se non è almeno dell'1%, la promessa che scende il debito mentre il governo alza il deficit non si regge più in piedi. Peccato però che il dato reale di settembre, per così dire, non dia una mano al governo, ma è un dato reale, come si fa a nasconderlo? È esattamente quello che è avvenuto ieri. Allora, tra un minuto torniamo con Marco Cobianchi per dirci di cosa parla la puntata di oggi, e parla, ve lo dico da subito, delle differenze di reddito. Tutti sono convinti che in Italia, più in generale dell'Occidente, si sta approfondendo con la crisi, l'austerità, una distribuzione del reddito a favore dei ricchi. Vediamo se i numeri dicono davvero questo, se sono opinioni in libertà. Tra un minuto. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci, tornati in diretta alle 16.48, c'è una raffica di sms e telefonate, tento di dividerla in partiti. Molti di voi è chiaro che si pronunciano sul tema perché hanno opinioni politiche diverse e contrapposte, quindi c'è chi un bel po' di sms che dice Renzi e i suoi sono taroccatori di professione, non ci credo, altri che dicono però almeno quelli dell'Istat io li vado a vedere, ci credo e voglio sperare che sia così. Beh, secondo me fate ragionevolmente bene. Abbiamo imparato invece che i comunicati mensili del Ministero del Lavoro sulle cessazioni e attivazioni, avevamo ragione a criticare dall'inizio, hanno smesso di farli perché erano veramente manipolati. Quando dico manipolati, non voglio dire che siano dimenticate 400.000 cessazioni, che è un ordine di grandezza a cui poi credere che si sia trattato di un errore per fare le addizioni, e infatti hanno smesso il 25 di settembre, non l'hanno fatta. Molti di voi però dicono, a prescindere dalla politica, no, io tendo a non fidarmi perché vedo che comunque sia sono ordini di grandezza così insignificanti che intorno non riesco a confrontarli con gli andamenti veri della crisi, che mi sembra ancora molto molto molto forte. E questo lo capisco, perché quando c'è un gap da recuperare di 9 punti di PIL, 27 punti di investimento e così via, è ovvio che gli scostamenti migliorativi di frazioni di punto o di un punto è difficile percepirli. Comunque avete delle opinioni a stragrande maggioranza, tendete a non fidarvi. Allora, Marco Cobianchi, la puntata di oggi, questa su è vero che nella crisi e con l'austerity i ricchi sono più ricchi e gli italiani sono meno ricchi, non solo in Italia ma in tutto l'Occidente, come dice Piketty. I numeri che avete trasmesso e che tutti possono andare a vedere su True Numbers TV la confermano o dicono qualcos'altro? Allora, durante la crisi le diseguaglianze sono aumentate, ma non sono aumentate enormemente come è ormai opinione comune, c'è gente che ha fatto delle trasmissioni intere per ore e ore sull'aumento delle diseguaglianze durante la crisi. Sono aumentate, ma attenzione, noi oggi siamo molto più uguali di quanto non fossimo prima della crisi. Quindi in realtà oggi l'Italia è in una situazione di uguaglianza. Poi possiamo discutere naturalmente, perché questo fa parte del libero pensiero, se questo è colpa, responsabilità della crisi o di altri eventi, qui ci può stare dentro tutto, diciamo così, ma la crisi non ha creato una disuguaglianza così abissale tra poveri e ricchi, questo non è vero. Questo non è vero, la vera diseguaglianza è piuttosto all'interno dell'Italia, questo è il vero dato che dovrebbe preoccupare. Cioè diciamo che nel 1995 l'indice, la puntata serve anche per farvi capire cos'è l'indice di Gini, quello con cui tecnicamente si misura la distribuzione di serie, e quindi in questo caso la distribuzione dei redditi sul totale degli italiani, l'indice di Gini è un indice che va da 0 a 1, se è 1 vuol dire che c'è un italiano che ha tutto il reddito nazionale e gli altri non c'hanno niente, se è 0 vuol dire che tutti hanno la stessa fetta, per così dire. Ecco. Sì, esatto. E allora, il 95 era più alto di quanto non fosse oggi. Oggi, dopo i 7 anni terrificanti che abbiamo. Ma anche era più alto anche nel 2005, esatto. quindi oggi siamo più uguali. È chiaro che le differenze aumentano, diminuiscono, questo poi, guarda, secondo me... Siamo più uguali al ribasso, perché di reddito ne abbiamo perso, certo, ma siamo più uguali. Certo. Sì, siamo più uguali al ribasso, esattamente. L'andamento nel resto d'Europa è altalenante, ci sono paesi che sono più uguali e più diseguali, ma una cosa importante che abbiamo visto... Guardando... Quello che ha approfondito di più le diseguaglianze nella crisi è il Regno Unito. Sì, esatto. E c'è un altro punto interessante, che i paesi del Mediterraneo, cioè noi, Grecia, Spagna, Portogallo, siamo più diseguali di quanto non siano i paesi del nord Europa. Mm. Questo è interessante, su questo naturalmente si può ragionare e poi si entra nel campo delle opinioni, ma insomma questi sono i numeri. La diseguaglianza all'interno dell'Italia che mi ha colpito, cioè il sud è molto più diseguale di quanto non sia il nord. Naturalmente il dilemma che sorge sarà perché c'è anche più evasione, quindi dati ufficiali. Sì. Certo, naturalmente, ma infatti io non sono un economista, quindi tengo a precisare, non sono un economista ma sono un giornalista, quindi vedo i fatti e li racconto, dopodiché arrivano gli esperti e mi spiegano il motivo per cui, però insomma questo è un fatto. Ecco. È un fatto mica da ridere, il fatto che tutta questa cosa sulla diseguaglianza, Piketty, eccetera, eccetera, le serie storiche italiane dicono che non è vero, eravamo più diseguali nel 2005 prima che la crisi fosse di oggi. Allora guardate che questa cosa, cari ascoltatori, dovrebbe permettervi, naturalmente andate a controllare, andate a vedere la trasmissione, sono citati tutti i numeri ufficiali, però è un discrimine per capire se avete di fronte un politico, un sociologo, un sindacalista, che vi dice l'opposto e dice è per questo bisogna fare questo e questo, la sua premessa è fattualmente inaccettabile, è sbagliata. Ed è anche la conclusione che è sbagliata, perché la conclusione è allora bisogna tassare di più i ricchi. Ecco, esatto. Siccome i ricchi si sono arricchiti, adesso li bastoniamo di più. Che io non commento, magari c'hanno ragione, non lo so, io non sono d'accordo, ma insomma si può avere opinioni. No, ma è la premessa che comunque è sbagliata. Allora, sentiamo un po' di ascoltatori. Michele da Campobasso, ti fidi dei numeri? Assolutamente no. Da quando un signore molti anni fa pensò addirittura di seguire la televisione, disse che avrebbe dato 1 milione di posti di lavoro in più. Quindi figuriamoci un po' se uno può fidarsi dei numeri. Michele, fai bene a richiamare quel precedente, perché diciamo poi c'è chi ci mette di più di responsabilità nell'alterare i numeri, chi meno, ma quello ce l'ha messa parecchia. Sì, ma poi con la collaborazione di quella specie di teatrino di Bruno Vespa, eccetera, eccetera. Vabbè, sono molti anni che non seguo la televisione, ascolto molto la vostra radio e mi complimento, perché è veramente una bella radio, mi complimento anche con lei, Gianni. No, grazie. Per quanto riguarda i numeri, guardi, le dico una cosa semplice. Come non fidarsi dei numeri e come avvalorare la tesi del fatto, cioè il fatto che in Italia il 10% degli italiani abbiano metà della ricchezza nazionale. È facilissimo, basti vedere la tassazione che hanno messo sulla seconda casa, cioè l'aliquota IRPEF, l'aliquota fissa del 20%, avvantaggia, se vi fate i conti matematicamente, non sto qui a farli perché sarebbe lungo, ma chiedetelo a chi volete, avvantaggia chi ha più appartamenti, non chi ha meno appartamenti. Va bene, Franco, tieni conto che la cosa del 10% che ha il 47%, anche in questo caso, se la paragoniamo con altri paesi, l'Italia non sta messa affatto male, quindi come non è un buon esempio comparato di un paese ad alta ingiustizia nella distribuzione del reddito, per così dire. Allora, mi scuso con Alessandro Macerata, Michele da Roma, eccetera. Marco Cobianchi, andate a vedere www.trunumbers.tv o trunumbers.it. Grazie Marco per essertela inventata. Continuate con Radio 24 e da lunedì mattina, dalle 8 alle 9, io sono con Milan. Attenti a noi due.